Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Olga e Debs. Questa è di nuovo Radio Città Fujiko, siete su 103.1 e siete sabato pomeriggio alle 2 con Van Loon e della vostra mezz'ora di storia. Questa settimana ci allontaniamo moltissimo dai nostri normali selciati della storia del Novecento. Deborah ha letto e ha proposto alla redazione di fare un'intervista all'autrice, che vi diremo tra poco chi è, e di esplorare altri mondi. Prima di tutto sono mondi non proprio vicini a noi, perché è un mondo dei bambini, quindi è un libro per bambini e ragazzi, pensato per i bimbi e le bimbe delle elementari, ed è non un libro di storia propriamente, ma un albo illustrato, vero Deborah? Sì, ci addentriamo appunto in mondi lontani dal Novecento e da quello di chi teoricamente si occupa di storia, perché appunto andiamo nel mondo delle bambine e dei bambini, e soprattutto andiamo nella preistoria, una cosa lontanissima dal Novecento e da quello di cui ci occupiamo solitamente, come ormai sapete, come ormai sanno i nostri milioni e miliardi di ascoltatori e ascoltatrici. Ci occupiamo principalmente di storia contemporanea. Quindi perché un libro di preistoria dovrebbe finire sui microfoni di Van Loon? Beh, innanzitutto perché Van Loon tende a cercare modi altri di raccontare la storia. Vogliamo andare oltre l'Accademia, oltre le riviste specializzate, oltre gli addetti ai lavori. È sempre stato un po' il nostro intento. E i libri per bambini e bambine, insomma, sono un altro modo di parlare di storia. E questo libro, che si chiama, ancora non l'abbiamo detto, Preistoria, altri sguardi, nuovi racconti, creato da Elisabetta Serafini e da Caterina Di Paolo, esce per una casa editrice che si chiama 7-9, all'interno di una nuova collana che si chiama Storie nella storia. E infatti ha un po' l'intento di parlare di storia ai bambini e alle bambine, e di appunto di costruire alcuni stereotipi di genere. Ovviamente l'approccio, la critica femminista alla storia fa parte ormai del nostro DNA, e questa cosa ovviamente ci ha portato subito a buttare attenzione su questo progetto editoriale. E inoltre ci siamo dette, qua si parla di storia appunto a un pubblico assolutamente non scontato. Il libro Preistoria, altri sguardi, nuovi racconti, appunto, vede la collaborazione di Elisabetta Serafini, ricercatrice in studi storici, insegnante, e si occupa della didattica della storia e della sua declinazione in chiave di genere, ed è coordinatrice nazionale per la didattica della SIS. Poi abbiamo la collaborazione di Caterina Di Paolo, che ha studiato filosofia del linguaggio a Venezia e comunicazione e design per l'editoria Alisia di Urbino, e lavora come grafica, redattrice e illustratrice. E tra, diciamo, quello che possiamo sostenere come autrici, come diciamo responsabilità di questo libro, c'è anche la SIS, la Società Italiana delle Storiche, di cui ci parlerà meglio Elisabetta Serafini durante l'intervista. Questo libro è edito da la casa editrice 7-9, una casa editrice molto particolare. Nasce nel 2013 ed è il primo progetto editoriale italiano interamente dedicato alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere. Quindi punto a favore di questa casa editrice che ce la rende assolutamente molto simpatica. Prima di scoprire che incredibilmente le donne popolano anche la preistoria, ci sentiamo un po' di musica. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle. Creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que el aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Benvenuta Elisabetta. Grazie, sono felice di essere ospite della vostra trasmissione. Bene, Elisabetta, una delle curiosità di questo libro è sicuramente il progetto che c'è dietro, che appunto ha mosso di più persone. E vuoi raccontarci un po' com'è nata questa idea e come è andata avanti il progetto editoriale? Certo, certamente. Beh, sì, effettivamente dietro il progetto ci sono molte persone. È un progetto corale, come corale è la storia che vogliamo raccontare con questo progetto. E vede l'incontro della casa editrice 7-9 con la Società Italiana delle Storiche. Allora, la casa editrice 7-9 è una casa editrice piccola ma con un grande progetto, che è quello di contrastare, prevenire gli stereotipi di genere. E la Società delle Storiche è una società di storiche nata nel 1989 e quindi compie quest'anno i suoi 30 anni, che oltre ad occuparsi di ricerca storica, di storia delle donne, storia di genere, si occupa anche di divulgazione, didattica e divulgazione. E su questo punto, sul punto della didattica e divulgazione, si sono incontrate casa editrice e società per un progetto di divulgazione di storia delle donne, appunto. E perché la collana, che è una collana di libri che vanno dalla preistoria all'età contemporanea, pensati per la scuola primaria e secondaria di primo grado, vuole raccontare appunto la storia dal punto di vista femminile, ma non solo, vuole raccontare una storia dal punto di vista femminile includendola nel racconto storico più ampio, quindi parlando di donne, parlando di bambini e bambine, ma parlando di relazioni. E lo fa attraverso l'albo illustrato. Preistoria è il primo volume, che è uscito nel 2018. Devo dire che anche il fatto che la SIS abbia contribuito a questo libro ci ha ovviamente incuriosito. Io vengo dal mondo della storia delle donne e poi appunto con l'attività di divulgazione in radio abbiamo sempre cercato appunto di portare avanti tematiche legate alla storia delle donne e all'analisi femminista, e diciamo ho sempre apprezzato la capacità di inserire la pratica della divulgazione storica. Ricordo infatti con piacere le scuole estive della SIS tra le tante cose che fa. Ti faccio un'altra domanda: è un libro appunto sulla preistoria. Secondo me, non solo secondo me, la preistoria è piena di tantissimi luoghi comuni e l'immagine che ci viene consegnata un po' dal mondo mainstream e dei pochi ricordi che abbiamo della scuola è l'immagine di un uomo con delle pellicce addosso che mangia la carne e sta in mezzo alle caverne e che a un certo punto scopre il fuoco. E così anche un sacco di stereotipi sull'immagine dell'archeologo, che tendenzialmente è maschio, come tutte le figure professionali. Invece con questo libro abbiamo l'opportunità non solo di interrogarci sui ruoli di genere, ma anche sui tanti luoghi comuni che accompagnano la preistoria. A me infatti è piaciuto moltissimo e mi sono fatta un sacco di domande, perché anch'io assolutamente vittima dei luoghi comuni sulla preistoria, mi sono trovata in mano un prodotto che parla ai bambini, ma appunto parla tantissimo anche agli adulti e a chi di storia si occupa. E vuoi raccontarci un po' appunto quali sono secondo te i luoghi comuni che vengono scardinati con questo progetto? Certo, certo. Beh, io prima ho detto un albo, una collana dedicata alla storia primaria e secondaria di primo grado, ma in realtà è un prodotto che, come giustamente sottolineavi, va direttamente, è rivolto intanto direttamente a bambini e bambine, quindi non c'è bisogno di una mediazione dell'adulto, però allo stesso tempo parla un po' a tutti, perché di fatto, soprattutto per quanto riguarda la preistoria generalmente la studiamo soltanto a scuola, se non abbiamo poi occasione di incontrarla di nuovo nel nostro percorso di studi. E soprattutto per come oggi è organizzata la scuola, generalmente si studia soltanto nella scuola primaria, perché poi si dovrebbe ripetere nella scuola secondaria di secondo grado, ma generalmente viene trascurata invece per privilegiare lo studio della storia antica. Quindi si rimane un po' tutta la vita con le conoscenze che abbiamo acquisito a scuola primaria e il problema è proprio quello che il nostro punto di partenza è una grande lacuna, come tu dicevi, cioè tanto sì, una lacuna e molti stereotipi allo stesso tempo, poche donne ma pochi esseri umani differenti dal maschio adulto, no? Quindi sì, dicevo prima bambini e bambine, veramente è difficile trovare una persona che non sia un uomo adulto. Soprattutto più si va indietro nel tempo, più è difficile. E quindi questi libri per la scuola primaria sono effettivamente privi di altre figure, e se queste figure ci sono, comunque sono molto stereotipate. Perché c'è un grande problema, il grande problema che generalmente, chiaramente qui parlo per generalizzando, ma ci sono poi delle eccezioni, i libri della scuola primaria sono libri che poco curati da specialisti delle discipline, e quindi nel racconto storico che viene proposto ci sono grandi generalizzazioni, cioè la semplificazione che si dovrebbe fare in questi libri diventa una banalizzazione dei contenuti. Ora, quindi, che cosa troviamo? Quali sono questi luoghi comuni che troviamo? Intanto, appunto, come tu sottolineavi, la figura dell'uomo, del cacciatore, no? Che sembra dominare questa preistoria. Allora, intanto è importante differenziare, perché se parliamo di preistoria parliamo di un lunghissimo periodo, quindi non possiamo fare riferimento soltanto a un modello. Ma se pensiamo a i primi passi che hanno mosso i piccoli gruppi di esseri umani nomadi che andavano in cerca di cibo, noi abbiamo fatto riferimento proprio a questa espressione, un gioco di squadra, cioè in realtà la sopravvivenza si basava molto poco sulla caccia, perché la caccia era qualcosa che era qualcosa di rischioso, garantiva poche possibilità di riuscita, quindi era la raccolta soprattutto di vegetali, bacche, che dava, o anche la caccia di piccoli animali, che erano quelle che davano un apporto calorico assicurato. E questo tipo di, pensiamo al miele anche, no? E questo tipo di cioè la raccolta, la caccia di piccoli animali era qualcosa che si faceva effettivamente, cioè facevano donne, uomini, maschi, femmine, donne, uomini insieme, spesso anche coi bambini, tant'è che appunto nel libro si parla, per dire, di questa scoperta importante di Melka Kunture, no? Nella quale si troviamo una scena fotografata, tra virgolette, una scena di vita preistorica nelle impronte fossili di un gruppo persone che erano a caccia, erano impegnate in una battuta di caccia e cacciavano un ippopotamo, e lì c'erano appunto uomini, donne e bambini allo stesso tempo. Quindi questo, poi cercare di anche uscire da quell'immagine che ritroviamo moltissimo nei libri di testo, che vuole il femminile schiacciato soltanto sulla maternità anche, no? Troviamo spesso le immagini di queste statuine che ci vengono raccontate come simboli di una centralità del femminile all'interno delle comunità, quasi ci parlano di un diffuso culto della Dea Madre, sì. Ed effettivamente in quel caso invece bisogna specificare, bisogna andare a guardare i singoli contesti perché sono molto, molto diversi tra loro. Insomma, il senso è quello di cercare di restituire complessità a questo periodo lungo e importante della storia dell'umanità, che è chiamata preistoria, ma che è storia a tutti gli effetti. Assolutamente. Un altro stereotipo che viene scardinato nel libro è che a un certo punto nel Neolitico arriva l'agricoltura, quindi questi gruppi nomadi diventano sedentari e arriva l'agricoltura, che come sottolineato anche nel libro è una grande rivoluzione, una vera rivoluzione nel quotidiano, e poi porterà alle civiltà che abbiamo studiato, eccetera eccetera. Le donne sono fondamentali in questo passo, in questa rivoluzione, mentre noi, io per prima, come dice anche Deborah, pensa che l'agricoltura sia arrivata da un giorno all'altro e siano stati gli uomini. Qual è il ruolo che probabilmente hanno avuto le donne in questa fase dell'agricoltura? Beh, quello che si ipotizza, perché poi nel libro si parla molto di ipotesi, no? Sì, parlando sì. Di preistoria, parliamo quello che tu hai detto prima, hai detto una cosa che mi è piaciuta molto, hai detto leggendo il libro mi sono fatta molte domande, no? Mm-hmm. Perché è proprio questo il senso del nostro lavoro, cioè desiderare che non vogliamo soltanto dare risposte, anche perché appunto non possiamo pensare di condensare in 50 pagine l'intera preistoria, ma vogliamo appunto stimolare i bambini e le bambine in primo luogo a porsi delle domande rispetto a quello che studiano e che conoscono attraverso la scuola, ma non solo. E rispetto alla preistoria possiamo ipotizzare, dunque partendo da quello che dicevo prima, quindi dal fatto che a dedicarsi alla raccolta era il gruppo, ma erano prevalentemente le donne. Questo dedicarsi alla raccolta ha fatto sì che appunto si avesse una confidenza col mondo vegetale, che attraverso l'osservazione, attraverso la pratica quotidiana ha consentito di guardare, di osservare come quale fosse il ciclo naturale. Quindi probabilmente sono state le donne che hanno iniziato con l'orticoltura a praticare inizialmente appunto un tipo di coltivazione secca. E poi appunto dall'orticoltura si è passati all'agricoltura. Chiaramente qui c'è un passaggio cruciale, perché poi nel libro si dice le prime rappresentazioni di per esempio un aratro vedono un uomo che utilizza questo aratro, ma perché di fatto con questa rivoluzione neolitica cominciano a differenziarsi, le società diventano molto più complesse, più grandi, complesse, stanziali, si fanno più figli e quindi c'è una maggiore divisione dei ruoli. E cosa accade? Che probabilmente è da quel momento in poi che cominciano a differenziarsi i lavori e quindi all'uomo spettano quelli più faticosi, alla donna quelli che sono invece più le consentono anche una vicinanza ai figli piccoli e quindi le consentono di allo stesso tempo di accudire i figli e di lavorare. Quindi è un passaggio cruciale che certamente racchiudiamo qui, raccontiamo in pochissimi minuti, ma è fondamentale raccontarlo ed esplicitarlo anche in questi termini, perché ecco un altro stereotipo che si ritrova spesso nei libri dedicati a questa fascia d'età a cui noi ci siamo rivolte è quello che le donne per caso scoprono che il seme cade e germoglia, no? E invece non è così, molto probabilmente questo il passaggio appunto all'orticoltura è avvenuto perché c'è stato un lavoro c'è stata l'osservazione dietro, no? Ci sono stati dei ragionamenti. Sì, quindi, sì, infatti anche questo è anche un altro aspetto, cioè vedere le persone che abitavano appunto questi tempi lontani come persone non vittima degli eventi naturali, ma che in qualche maniera anche loro hanno sperimentato, sono state scienziate, sono state professioniste del loro periodo. Bene, io vi invito a guardare il libro, a sfogliarlo, e anche perché non abbiamo ancora detto che è accompagnato da delle bellissime illustrazioni di Caterina Di Paolo, delle illustrazioni bellissime che a me hanno, non so se era il suo intento, però mi hanno fatto proprio rilassare e dare l'idea che era possibile che anche io potessi capire qualcosa di preistoria. Elisabetta, senti, hai detto che questo è il primo libro della collana, sai quando esce il prossimo? Certo, lo so benissimo, sono felicissima di dirlo in anteprima, nel senso non vi posso dare una data precisa, però insomma lo stiamo chiudendo in questi giorni, quindi l'uscita è imminente, dovrebbe essere per l'estate, quindi il secondo sarà, se posso anticipare... Certo, sì. Un po' e proprio seguirà quindi l'ordine cronologico e quindi sarà dedicato alle civiltà dei fiumi e colgo, non ho risposto prima a una cosa che mi chiedevi, se ho due minuti sì. Per dire che appunto ci sono delle cose che torneranno in questa collana, tra cui questo personaggio che proprio per cercare di rivalutare il ruolo della storica, dell'archeologa, di queste donne che professioniste che compaiono proprio nei libri, poco nei libri di testo, quindi abbiamo voluto una storica, un'archeologa a introdurre ognuno dei nostri albi. In questo caso, nel caso di preistoria, è Margaret, sì. Margaret Ehrenberg, e così ci sarà un personaggio veramente interessante a introdurre il secondo libro sulle civiltà dei fiumi. Infatti, che a breve appunto uscirà. Secondo me, io ci ho ritrovato qualcosa di molto femminista a presentare chi ha studiato queste cose, no? Metterla con la propria soggettività proprio dentro il libro, a guida del libro. Secondo me è stata un'idea molto bella che mi ha riportato in mente tantissime riflessioni su chi fa storia, come la fa e l'importanza di chi quel mestiere lo fa, indipendentemente poi dai contenuti che porta. Sono felicissima perché sono messaggi che abbiamo voluto lanciare e proprio anche inserire i soggetti a più livelli all'interno del racconto, quindi chi fa storie, e poi ecco, da Margaret si passa alle donne che prima di sì. lei mm-hmm. hanno fatto e di cui si parla poco, e quindi è un gioco, un richiamo fino ad arrivare poi continuo fino ad arrivare alla preistoria che ecco, come dicevo prima, forse la prima parte è quella che lo dico sempre, che è quella a cui sono più affezionata, perché è proprio quella che anche avvicina al metodo, no? Quindi anche richiama anche il discorso del perché abbiamo voluto dire usare questo sottotitolo, altri sguardi, nuovi racconti, proprio c'è questo invito nella prima parte dell'albo a guardare con occhi diversi le fonti, a volte basta questo, porsi nuove domande e guardando le stesse cose in modo diverso possiamo avere molte informazioni in più e possiamo soprattutto decostruire informazioni che ci sono arrivate in modo viziato, no? Perché spesso e frequentemente a fare storia sono stati soltanto gli uomini e quindi non hanno proprio guardato le donne del passato. Noi, Elisabetta, ti ringraziamo e invitiamo ancora una volta a leggere, ma non solo i bimbi e le bimbe, ma anche i grandi. Ti direi che ci risentiamo presto per le altre uscite. Grazie, ciao. Grazie ancora Elisabetta Serafini, e con i probabilità ci risentiremo per le uscite degli altri albi, sicuramente lo segnaleremo nelle nostre rubriche, nelle nostre puntate. Per quanto riguarda le segnalazioni, vi segnaliamo alcuni appuntamenti di queste settimane. Il più vicino è il 28 maggio al VAG in via Paolo Fabbri, c'è Narrazioni antifasciste, un percorso appunto di narrazioni, occasione dell'anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia. Un altro appuntamento è questo weekend, Olè, il Festival dell'Editoria Indipendente XM, troverete tutto il programma sul sito di XM24. Il 31 maggio, orario aperitivo, un bel aperitivo e una chiacchierata al Circolo Berneri, di Piazza di Porta Santo Stefano con Andrea Palladino, che è l'autore del libro Europa Identitaria. Si parlerà di, appunto, di sovranismo, populismo e le nuove destre in Europa. L'ultima segnalazione, che non è veramente una segnalazione, è che la nostra radio, ovvero Radio Città Fujiko, ha cominciato a fare un crowdfunding, e c'è una ragione precisa. Quest'anno, per le europee che sono domani, Radio Città Fujiko non ha deciso di non trasmettere gli spot elettorali, perché la legge imporrebbe di mandare in onda tutti gli spot delle campagne elettorali, tra cui quelle di forze neofasciste, che, come ripetiamo, come sappiamo e come manifestiamo in piazza, dovrebbero essere sciolte e dovrebbero essere illegali. Quindi, per rispettare la Costituzione, che ci dice che il fascismo è legale, non abbiamo deciso di non fare questa cosa. Purtroppo questo nel mondo della radio ha comportato anche una perdita in termini di soldi proprio economici, quindi la radio, noi lanciamo questo crowdfunding per cercare di recuperare tramite i nostri ascoltatori, ascoltatrici, fan e supporter questa somma di denaro. Quindi, se potete, se volete, su Produzioni dal Basso c'è il crowdfunding di Radio Città Fujiko. Bene, speriamo che i nostri stimoli vi siano piaciuti e vi auguriamo buon pomeriggio. Olga, ricorda i link del nostro sito dove possono riascoltare tutte le nostre puntate. Allora, lunedì i podcast delle puntate, della puntata di oggi e delle altre puntate di questa stagione, che è quasi al termine, e della scorsa stagione, sono su www.radiovallon.info, e quindi ascoltateli tutti. In settimana poi appariranno anche sul sito di Radio Città Fujiko, dove troverete appunto le nostre puntate e anche tutte le info riguardate il crowdfunding di Radio Città Fujiko. E buon pomeriggio, al prossimo sabato. Ciao.